non c'è l'intenzione di riprendere altri capo, poi il 430, poi mi è entrato l'altro 430, l'Aesio, insomma questo qui, e quindi insomma un altro ci vuole, beh. Perché c'ho l'MC50, infatti stavo dicendo a Fabrizio che faccio il 20, e mi fa un rumore di alternato. Ho detto prova a aprirlo, guarda le connessioni, magari qualche passo contatto, qualcosa. Provo a aprirlo, perché è nuovo, nuovo, nuovo. Anche l'MC50 funziona bene, perché con lo IAESO va benissimo, con l'adattatore. Quindi a quel punto lì, se con l'adattatore non fa quel disturbo, allora c'è qualche problema sulla connessione K, capito? Guarda le mail, cosa si faccia. Vediamo se qualcuno nel frattempo vuole entrare. Avanti 10. Avanti 10, sono l'8, sono andati a magna. Tra un po' vado anche io, le 8, forse sono anche di più delle 8, perché adesso sono quasi le 8:05. Ti ho già mangiato. Mia Gianfranco, come Gianfranco ha già mangiato, allora ti lascio in compagnia di Gianfranco e io vado a pappare. Beh, ci sentiamo tra un attimino, io intanto la radio è accesa qua. Ok, vai Gianfranco. Sì, io ho finito. E adesso ho terminato col lavoro. E niente, si funziona comunque. Avanti roba. Ciao Gianfra, ben sentito, stavo parlando con Luca. Quel computer ha chiamato Claudio, dice c'erano problemi sull'hard disk, oggi è arrivato nuovo, gliel'ho dato, da 500 GB, e non è riuscito a farlo funzionare, però cioè, c'è qualche problema, dice, arriva quando fa la, come si chiama, per caricare Windows, si blocca l'11%, gli appare questa scritta, te la posso dire così mi dici qualche informazione? Dimmela. È impossibile installare i file necessari, file danneggiato o mancante, verificare che tutti i file necessari per l'installazione siano disponibili, quindi riavviare l'installazione. Codice errore, c'è scritto 0x800 70 570. Ripetimi il codice, 0x800 70 570. Capito. La disco che com'è? SSD o normale? Non ne capisco niente, lui mi ha detto, aspetta te lo dico che cos'è che l'ho ordinato. No, normale, normale. E il Windows, che Windows è? Windows, sto installando Windows 10, ma Windows 7. Faccio la prova dell'installazione per vedere se me lo fa installare. Però mi dà sempre... c'è qualcosa che non va nel computer. In che fase te lo dà questo errore di installazione? Quando... installazione oppure appena per la tenti di installarlo? Allora lui si fa la scansione degli aggiornamenti, poi inizia la percentuale, arriva a 11% e mi esce quella cosa che ti ha citato Roberto. C'è qualcuno che può entrare? Hai anche scaricato il sistema di correzione per quel tipo d'errore? No, assolutamente no. Ma anche se glielo scarico dove, come faccio? C'è un programma di computer, di scheda. Perché non arriva quella percentuale lì e non va avanti. Si blocca. Tu pensa che poco poi è arrivata al 14%. Sì, 14%. No, so, adesso è andato di nuovo, vediamo un po'. C'è qualcosa che non va, secondo me è un problema dovuto dalla scheda madre. È un po' strano in effetti, ma il Windows è ovviamente l'originale, cioè non è quelli soliti scaricati da qua e da là, insomma lo stai mettendo da un Windows sicuro, ecco. Eh certo, non so pensare l'atti, ce l'ho io anche, io ho Windows 7 sempre nel mio computer portatile, l'ho installato anche da poco Windows 7 in un PC, che purtroppo 10 era troppo pesante, io ho messo 7, tranquillo che è più che sicuro. Strano, perché anche se fosse qualche problema, che ne so, sulla scheda audio ad esempio, che è rotta o qualcosa di altro tipo, allora in teoria dovrebbe andare avanti, terminare l'installazione e poi fare, diciamo, segnalartelo, ecco. Quindi è abbastanza strana questa cosa. Però dimmi una cosa, tu stai facendo un'installazione pulita, giusto? Non sovrapposta. Certo, sono a disco nuovo. A disco nuovo, me l'ha portato lui, sto facendo un'installazione pulita. Adesso sta andando di nuovo, espansione, find Windows 0%. Poi lui arriva, te l'ho detto, l'11% mi dà quell'errore. Non lo so. La disco è buono perché è nuovo. Sto usando addirittura anche un lettore DVD esterno. Perché magari pensavo fosse il lettore DVD che c'ha il fisso, che è danneggiato. Ma manco con quello. Sicuro, guarda, il Windows 7 questo qua è più che ottimo. Ma ti volevo chiedere una cosa, siamo sicuri di questa hard disk? Perché anche nuovi a volte se prendono qualche urto, spostano le testine, sai che succede, casino. Sei proprio certo che sia buono? Perché potrebbe essere anche un errore dovuto all'hard disk difettoso, e quando magari uno se ne accorge quando scalda che è in funzione, e poi si presentano questi errori che sono dovuti soprattutto alla logica. Infatti io a Roberto glielo ho detto, per come l'ha imballato, non è che l'ha imballato bene, quello che l'ha imballato bene, è come, cioè, sono molto delicati, invece l'SSD è più resistente. E poi può anche essere che questo hard disk nuovo arrivato che si è danneggiato, anche questo. Beh, infatti se un computer è datato che non deve fare particolari lavori, io ci avrei messo un SSD anche piccolo, tanto il sistema operativo non te lo occupa tutto. Con una trentina di euro un SSD si trova, di quelli piccoli, e sei tranquillo, anche da 2.5 lo puoi mettere dentro, cioè, anzi sono da 2.5. Allora io ce l'ho messo da 500 il mio portatile, l'SSD ed è un bombo. L'avvio è veloce, lo spegnimento idem, è abbastanza fluido. Può essere un computer un po' vecchiotto, però viaggia abbastanza bene. Oh, non lo so, se vuoi, ci vuoi provare tu, io non riesco a cavarne piede. Ti ho cambiato la pasta termica, gli ho pulito la ventola, gli ho messo anche la scheda video, ma pensavo fosse quello, glielo devo staccato, rimetto la sua, nulla. La scheda video non c'ha niente. Io ho messo una scheda video ventilata, quella della Torino non mi interessa, della do Roberto, non sono merita perché mi ha fatto anche tanti favori e non ci sono problemi per quello. Però è il discorso che mi dà questo errore qua. È probabile che ci sia qualcosa sull'hard disk. A me mi capitava con hard disk difettosi questo problema, ma con quelli nuovi ho installato di tutto, SD, quelli SSD, e anche la chiavetta addirittura. Hai provato a installare un live giusto per vedere se comunque la macchina funziona? Installare? Un sistema live, tipo, guarda, c'è anche Android, c'è anche un Linux, ma giusto per fare la prova, da una pennina semplicemente, non lo devi neanche installare sull'hard disk, lo devi solo avviare praticamente. Ci sono tanti live, io ne avevo uno, in modo che ti appaia tutto tutto il computer, diciamo, perché se ti funziona l'audio, se il video è perfetto, se funziona il mouse, se funziona tutti gli altri device, allora c'è poco da girare, la RISC, capito? Tanto sono sistemi che non lasciano traccia, non si mettono nell'USB, fai l'avvio dal boot, dalle USB come prima opzione, se la legge si avvia e c'è subito un sistema operativo anche senza hard disk. Ah, vabbè, così non l'ho mai fatto, la verità, sono sincero, io ho sempre installato con anche una primina, Windows 10, però come stai dicendo tu, nada, nulla da fare. Per quanto riguarda l'audio è a posto, per quanto riguarda le porte USB sono a posto, il PC è a posto. Mi sta dando questo problema per quanto riguarda magari robe, questa RISC, sai, quando consegnano i corrieri non so cosa c'è dentro, può darsi pure che abbia preso colpo, sono molto delicati questi cavoli di RISC, sono molto delicati. Luca, io ho trovato in quella scarta imbottita, però non era così, c'era una scatola in cartone, tutto chiuso bene, diciamo, dentro una cosa chiuso bene, non era così all'aria aperta. Ho capito, però queste cose non devono prendere colpi, Roberto. Qualsiasi colpo che prende si può tutto. Ma tu c'hai modo di provarlo da un'altra parte, con l'hard disk su un altro computer, su qualcosa? Magari, vedi, magari lo legge, per esempio, te l'ho già spiegato, tu lo legge, mettendo nel case, no? E installando nel computer, nel portatile, lo legge, vabbè. Quello, se sta andando vuol dire lo sta leggendo, però è danneggiato, cioè non ti fa installare il sistema operativo. Brecco, registrato. Avanti, brecco. Ciao Roberto, Fabrizio, ascolta, da poco fa devo provare un apparecchio, com'è il mio segnale? 9 più 50 da me. Così cambia? Dovrebbe diminuire? 10 punti e però la radio migliora. Ovviamente. Allora, 10 punti, guarda, e se io aumento, adesso la radio così ha peggiorato, vero? Sì, leggermente satura quando attacchi. No, ovviamente a te è così. Veniamo invece a Lucariello. Beh, Fabio, mi stai facendo tutti i nocchi. Addirittura. Chi è che c'è più lontano? Ma ha peggiorato la modulazione? Molto ribombante qua, ti sento anche in 26 su tutti i canali, è come se a posto di fare questo avessi un ultimo dei tre. Vabbè, con questo apparecchio è normale che un po' di eco, quindi è modificato così, ho aggiunto solo un po' di watt, tutto qua. Infatti c'è, sente questo eco che è molto distorsivo. Roberto, ha peggiorato qua l'eco dall'altro giorno con l'amplificatore attaccato? Così, dai, diciamo un po' più, meno nitido. Così invece ovviamente sono staccato, però io volevo vedere a distanza cosa succedeva. Ma così è molto meglio, staccato è molto più naturale, più chiara la modulazione. E se aumento leggermente, aspetta, Ecco, forse se aumento un pochettino i watt va meglio. Fa un passaggio più lungo. Forse lo stavo pilotando con pochi watt. Adesso va un po' meglio. Con un watt non va, perché devi dargli un po' più di birra, così forse va ancora meglio. Sì, adesso ti ascolto meglio rispetto al prima attaccato. È inutile, ha necessità di un po' di pilotaggio questo amplificatore. Mi senti dalla televisione, Gianfranco? Sì, praticamente questo apparecchio, nonostante la distanza, dovremmo essere a occhio e croce 8 km e mezzo, è praticamente inutilizzabile. È poca roba, solo che no, era, ho fatto una piccola fuggiuccia, giusto per avere, se uso il baracchino, avere qualche wattino in più, non molti ma qualcuno in più. Quindi praticamente io devo uscire con, aspetta, con tre glieli devo dare, perché se, l'ho visto anche col SAT, col Galaxy, se gli do meno di 3 watt lui si siede. Ma quant'è la potenza poi, 300 watt almeno? No, guarda, la verità, dovrei montare, che ce l'ho collegata alla HF, non ne voglio scollegarlo lo strumento serio, quello della Daiwa. Questo è uno della ZG che ho riparato pure, ma mi serve più che altro quando ho il baracchino attaccato, riparo gli apparecchi, questi baracchinetti, per vedere se sta uscendo più o meno in watt, come indicazione. Poi non è uno strumento preciso, quindi non so nemmeno esattamente, non mi fido, non ti dico quello che leggo, per capirci. Comunque non è tantissimo. No, perché il segnale è quasi superiore a quello di Roberto. Sei forse l'unico, insieme al mio vicino di casa, che arriva ad imballare il coso a LED. Lo fa, perché sono LED nuovi e sono di nuova tecnologia e gli succede questo. Oh, Roberto! Dimmi lui. Ma non è che tuo chito te l'ha comprato? Che l'ha comprato ricondizionato per quella cifra lì. Di quelli ricondizionati mi ha detto lui. E cazzo, Robè, è una nata di turchi. Dice che sono garantiti, però l'ha già acquistati altre volte. Vuol dire che lo sta qua ricondizionato, c'aveva dei problemi, Robè. Infatti mi sembrava stato un disco nuovo. Allora lo faccio provare dell'altro, cioè non è più nemmeno. Magari se lo metto nel case me lo legge, perché me lo legge, e poi lo installa il sistema operativo, mi fa quel problema lì. E cosa si può fare allora, se diciamo c'ha quel problema lì, e installarlo con un altro hard disk e poi rimetterci quello, si può fare? No, ci vuole un hard disk che non sia ricondizionato. E questo dice una ditta, ha comprato tante cose, questo è il mio genere, si ha detto che ha comprato tante volte e non ha mai avuto problemi. La disk proprio è una di quelle cose che vuole nuova, perché può avere 3 miliardi di problemi. Sì, è così. Per vedere, per toglierci il dubbio, non c'è un modo di questo hard disk attaccarlo da un'altra parte e farlo funzionare? Ma sto dicendo, Robè, se attacchi con il case esterno funziona, però per installare magari il sistema operativo magari arriva a un certo punto una percentuale che non sono installare ti dà l'errore e dice che è danneggiato. Sì, però scusa, se tu lo metti esterno ci sono dei programmi e ti dice che efficienza c'ha, se ha qualche settore danneggiato. Fabio, non c'è bisogno che lo metta esterno e ci sono dei programmi, lo dice il computer stesso che è danneggiato. Allora è danneggiato. Ma mi auguro che sia un SAT almeno, non è un IDE, no? Sì, è un SAT, è un SAT. SATA 2. Allora Fabrizio dice praticamente, allora ti dico cosa dice, è impossibile installare i file necessari, file danneggiati o mancante, verificare che tutti i file necessari per l'installazione siano disponibili, quindi riavviare. E ho proprio una di hard disk. Prova, non ce n'è a fare un'altra prova con un'altra hard disk. Sono tutti danneggiati quelli che ho io. Ho capito, conviene comprarlo nuovo. Infatti se no basta un hard disk 22 euro, cazzo, vieni ricondizionato. Roba allucinante, va. casino, guarda, come ha detto Gianfranco, gli avvisi vogliono nuovi, non ricondizionati. No, guarda cosa c'è scritto hard disk Sea Gate ST500DM002 Barracuda ricondizionato certificato DP B07 eccetera eccetera modello DM002 7200 il book. Certificato quando era nuovo. Se no io, vabbè, per pensiero che cazzo me ne frega, non fa neanche a restituirla questa roba, però uno lo prende, a me, noi quando acquistiamo delle cose, tu mi dai, sono campi diversi, per dire, compressori di aria ricondizionata, di alternatori, li prendiamo ricondizionati e ce li danno perfetti, turbine, garantiti come che siano nuovi. Per curiosità, quanto ti hanno fatto pagare? No, l'ho pagato pochissimo, 22 euro. L'ho preso da Amazon poi, non l'ho preso cose strane da privato. Quindi lo puoi anche restituire, fai il coso, il reso. Posso anche farlo, magari sono più le perdite di tempo e tutto. Dai, lo dico, se si vuole divertire il mio genero, sono pazienza, vuol dire che ci ho buttato 20 euro, 22 euro. Quello che voglio dire, ma non si riesce a trovare un hard disk per provare, ossia che magari compri un altro hard disk e sia anche quello difettoso. Perché Luca, tu non mi hai detto, ne hai provato 4 o 5, tutti e 4 o 5 hanno lo stesso problema. Non ho capito, Robert. Nico, non si può trovarne un altro per provarlo, sicuri che funziona. Metterlo su quel computer, su quel PC, e vedere se il problema è quello lì, oppure se il problema è la scheda madre o qualunque altra cosa. Io, ripeto, non è campo mio, non ne capisco niente. Però magari acquisti un altro hard disk ed è sfasciato e ti dà lo stesso problema. Vabbè, ma già del fatto che è ricondizionato, dice tutto. Io le cose le compro nuove, non ricondizionate. Io per esempio l'SSD l'ho comprato nuovo, impacchettato. Avevo pagato quasi 70 euro da 500 giga, vedi? Adesso è arrivato al 17% e mi è uscito di nuovo, è possibile installare i file necessari, file danneggiati o mancante, verificare che tutti i file necessari per l'installazione siano disponibili, quindi riavviare l'installazione, il codice di errore 0x870570. Vai a cercare in rete quell'errore per vedere cosa sta succedendo. Con quel codice non si riesce a risalire che cos'è il problema. Sì, se vai in rete lo trovi, così capisci più o meno cosa sta succedendo, perché potrebbe essere anche un problema di installazione delle, che magari ci trova qualche incompatibilità. Infatti l'errore è anche quello. Se tu lo butti su internet, in rete, te lo dice più o meno che cos'è quell'errore, magari ti dice disco danneggiato, oppure ti dice magari, che ne so, scheda madre, qualsiasi problema, non lo so, però magari ti dà un'idea. Allora, per quanto riguarda come riparare questo errore, devi scaricare un programma che sicuramente è a pagamento, oppure ti incagina ancora di più il tutto, ma io queste cose non le scarico. Allora, vediamo un po', adesso do un'occhiata qua, vediamo cosa mi dice, dai. Me lo dici l'errore, per favore, che me lo segno. Con Windows lo colleghi, vai sulla gestione dischi, che è abbastanza buona, e vedi un po' come questo hard disk, se viene letto, o come viene letto, che tipo di formattazione è stata fatta. Fabri. Comunque, due cose, dammi l'errore che voglio leggere anche io, però ti ripeto, se lo metti, avevi fatto un controllo in collegato a un PC esternamente per capire cosa sta succedendo. Ascolta, dammi il codice che leggo anch'io. Allora, 0x870570, ripeto, 0x870570. Modena 570. Sì. 800 sta per 800, poi c'è 570. Cioè, mi scusa, non è 870, c'è 800 70570. Va bene, 870 570. Ascolta, o X o 0X? No, 0X. Luca. Infatti c'è proprio quello lì che non ti fa eseguire l'installazione, quindi vediamo la soluzione. Si presenta erroneamente quando il sistema non è in grado di trovare un determinato file di cui ha bisogno. Può darsi che sia anche l'installazione che si è corrotta. Ne ho due sistemi operativi, c'ho il 64 bit e il 32. È impossibile che sia un problema, e poi arriva la percentuale di 14, anzi poco fa è arrivata a 17%. Allora controllati le memorie, guardati che non arriva le memorie, non sia mezzo andata. Memoria RAM a posto, sicuro al 100%. Beh, se no mi do la vidiata, cosa ne dici? No, quanti banchi sono? Due banchi, uno da 2 e uno da è un 3 giga di RAM, cioè. Proprio il minimo. Vabbè, glielo porto a 4, mi dà problemi, perché devi far girare la ventola a 2000. Poi c'è altre, funziona bene. Non mi fa il problema, fate tranquillamente. Strano. Può essere anche quella, la RAM, è qualcosa, c'è un... che non sta andando, prima andava benissimo, no, ovviamente. E penso che, pensi che la RAM faccia questo problema? Sì, certo, a voglia ne abbiamo visto di cose strane. Io sono anni che li ho fatti, io ho riparato anche computer che il tecnico ha detto che non si poteva riparare. Guarda, io sono nato e c'ho il Commodore 64 e ci facevo anche la programmazione sopra. Poi ho avuto tutti i tipi di Windows, dal Windows che c'era il DOS, che neanche mi ricordo come si chiama, fino all'ultimo, e fra poco penso che mi diano anche l'11. Il computer ne ho visto tanti, poi mi è capitato anche di dover lavorare insieme con la nostra assistenza, che le faceva pezzi e li faceva da nuovi proprio, dall'alimentatore alla scheda madre a tutto. Adesso sto controllando qua su YouTube, ho visto una cosa che magari ci voglio fare una prova io. Sicuramente l'avrei installato tramite USB. Vediamo un po', dai. Oh, cla. Non è che non funziona perché te l'ha dato un po' come. Che è? Andiamo e andiamo. Ah, io sono ignorante in materia, però di tutto c'è un collegamento. Voglio capire se qualcosa non è compatibile, per dire non è adatto a fare quel tipo di lavoro, magari rovina la catena, non è così la logica di sistema. Ma come c'è? Non mangio catena, l'unica catena che faccio è che mi serve per impiccarmi. Guarda, io parlo personalmente, io non prenderei mai un hard disk ricondizionato, mai. Sì, sicuramente Luca, però uno cos'è? C'è la certezza che sia rotto, è quello il discorso mio, e se invece non è rotto può essere un'altra qualsiasi cosa, quello che ti sto dicendo. Per vedere se è rotto l'hard disk, c'è una prova attaccando ad un altro computer, oppure in quel computer mettendogli quello che ti ho portato io, un hard disk che sei sicuro che funzioni? Vabbè, provo a portare un altro computer, c'è fa lo stesso problema, ce l'ha detto un fisso, non si buttano queste cose, si conservano, per fare le prove conviene sempre conservarlo. perché se io lo attacco tramite USB dal portatile non fa installare. Ma il problema quindi è solo l'installazione, Luca, del sistema operativo? Esatto. E non c'è altro modo di installarlo anziché usare l'hard disk? Non penso che tramite USB quel che riesca a installare Windows, Windows, o che sia 10 o che sia 7. L'hard disk si può sempre fare anche da staccato tramite un'immagine. Ma è staccato tramite un'immagine? Oh, Luca, fa una cosa, staccagli una RAM e vedrai che quella cosa va, secondo me. Stacca una RAM, devi avere qualche RAM difettosa tu. Fabri, io se stacco una RAM, aumenta la velocità della vetta, non va. Vabbè, faccio una prova. Allora, cambia, non so se c'è qualche RAM, vedrai che qualche RAM difettosa. È quello che ho detto anch'io, dato che sono anche differenti, una da 3 e una da 1. E già quello, perché c'è qualcosa di incompatibilità, non è il disco, perché gli manca qualche DDL e quindi non io, non manco io, però secondo me non è. Fabri, stavo dicendo, ci sei tu? Non sono io, io non manco, ci sono. Sì, se no lo spedisco a coso, chi è quello che va a coso? La Microsoft, ancora vivo. Allora la Microsoft, come si chiama la farà? Bill Gates. Non ce la vivo. Gli dico, guarda, c'è un problema, non è che c'è il numero di telefono, qualcuno lo telefono, dico, e glielo spedisco. Siamo per compassione, te ne regalo uno. Poi io l'ho spento, l'ho trasloccato ed era buttato, Dio, conservato era. Ma si è avvalato un raio, oggi vuoi ti dico. Cos'hai detto Gianfra? Che magari si muove a compassione, te ne regala uno, già se lo può permettere. Ma quello vigila le scatole, che sembra una beffa, Gianfra, stiamo dovendo fare queste prove digitali, cacchio, Claudio mi ha buscato il coso, il computer, poi c'aveva il monitor, me l'aveva regalato prima, poi tutto quanto, la vigila ha detto, lo attacco e vado, invece da una cosa da niente, io di piccini ho altri tremi di portatili, ma non me ne frega niente perché non li voglio mettere in piedi, io voglio un'unità esterna sotto, con la tastierina piccola sopra, di fronte alla radio che non mi dia fastidio, il monitor in alto che non mi diano fastidio da nessuno, se no a questo ne avremmo fatto 10 di prove. Cambiato le quanti di RAM, vediamo. Prova così, secondo me sono il RAM, qualcosa nell'hardware c'è. Ascolta, io devo chiudere fra un secondo, che devo dare una mano a mio figlio. Claudio, guarda un pochettino, ci sei? Yes. Allora, questo sono con l'ANA 48, guarda, da questo passaggio a questo passaggio abbiamo fatto le prove, l'ho collegato direttamente per utilizzarlo un po' questo linearetto. 9.20, 9.30 Fabri. E prima ero? Prima con l'altra eri 9.10, 9.20. E quindi è ottimo, dai, con dei bei picchi positivi. Alla grande, sei oltre il 30. Va bene, allora dai, io vi saluto tutti che devo dare una mano al bambino. Vedrai che sono le RAM. Adesso proviamo a vedere cosa dice Lucariello. Mi dispiace perché gli ho dato completo Gianfra a Robby. Ho fatto la tastiera, monitor, fotocamera, c'è tutto completo, il pennino, la pennina wifi, tutto l'impianto ce l'avevo io, è tutto figlio a Dio, tanto a me non mi serve. Mi dispiace se si avvarà a dare un fumo. Ma cos'è un portatile? No, è un Lenovo, è un computer d'ultima generazione, non pensare che... Un Lenovo è... Ho capito, di ultima generazione, è un po' vasta la cosa. Comunque, in origine cosa c'era? Windows 10? A Luca devi chiedere, a Luca io ti sto dicendo, l'ho sempre usato ed era una cannonata. L'ultima volta che l'ho usato era un paio di mesi prima di iniziare il trasloco, poi l'ho spento perché stavo iniziando a imballare, a fare, ed era in mezzo ai piedi nella sala radio, e mi ha imballato tutte le radio, tutto il computer e tutto quanto, l'ho messo da parte. Quando sono venuto qua poi l'ho messo nel magazzino Pio del Caverio ed è rimasto lì. Poi Roberto mi ha detto, le cerco un computer, tutto lo do io, intanto non lo sto usando, è funzionante, perfetto, mi che non funziona più. Se ti dico che me lo dovevi portare, volevo fare una revisione, una pulizia alla ventola, una pulizia alla pasta di raffreddamento. Ti ho detto che mi ha avviato per 3 volte a Windows e poi mi ha fatto quel problema lì. Io non ti sto condannando, io intanto non me ne intendo, tu mi vuoi dire, tutto mi subito in viaggio. Certo, infatti te lo devo portare, a fanculo a me, te l'avrei portato. Perché appunto era da tanto che non voleva fare quella roba lì, invece poi io ho iniziato il trasloco e non stavo pensando al computer. No, mi dispiace, no, vedo un po', già riesci a metterlo a posto. Ho detto, ma è Gianfranco, Fabrizio, loro già ne sanno, poi Gianfranco è il suo lavoro. Ma io fai qualcosa Gianfranco, fai il mago, tu fai il mago, io faccio il magone. Il signore degli anelli. Guarda, in altri tempi avrei scaccato un dito e avrei procurato anche più di uno, soprattutto di quelli che ci buttavano via. Adesso purtroppo arriva il coso da toccarlo, di biglia si rampa, senza neanche farteli vedere, quindi è così, purtroppo non si ricicla più niente, si butta solo. Vabbè, ma mi dispiace, dai. Già vediamo cosa si può fare. Non ha già altro. Forse ce l'ho un altro io, Milù. Forse ce l'ho io un altro. Forse c'è un altro computer, lo sai. L'ho visto proprio stamattina. Ed è quello che io avevo prima. E se ti ricordi, l'unico difetto che aveva è che praticamente tardava ad accendere. Sì, ciao, se non erro quello lì è color panna, cioè quelli vecchi. No, il pesce è nero e quello l'avevo comprato da Franco Delta e ha sempre funzionato bene, capito? Io quello lì, Lenovo, l'ho comprato perché quello lì praticamente, intanto è carico, lì c'è ancora Paltark, c'è addirittura il callbook del radioamatore, c'è tutta la parte amatoriale, capito? C'è tutto lì, non ho toccato mai niente, quello è pieno di roba, pieno, quello va tutto riformattato, però quello funzionava perfettamente. L'unico difetto che aveva è che tardava ad accendersi, capito? Tardava ad accendersi, a darmi la videata sul monitor, mi tardava. Oh, comunque la roba l'ho cambiata, ragazzi, è tutte e due banchi. Adesso dovrebbe essere 4 giga di RAM. Ok, vediamo poi se mi fa di nuovo l'errore. Però quello lì te lo do lui, perché ci sono pezzi da che servono, è un po' più piccolo del RAM e di tutto di quello lì, però ci può essere roba utile lì, Claudio, sei così vecchio, sei roba utile. Non c'è neanche il case, guarda. Non so, se no basta pezzi, devo con l'alimentatore, con il dutto e si rompe un gomolo. Anzi, proprio stamattina sono venuti a vedere se devono portare via tutto il cantiere che c'è ancora. Sono 4 anni che sono cantieri, ancora c'è la gru, c'è tutto il materiale, box, serbatoi. Stamattina ho visto c'era un camion, con la gru forse stanno iniziando a portare via, a fare pulizia qua nel cantiere come hanno costruito. Comunque, allora, un'altra cosa, quando io installo Windows 10, ci mette poco a partire la percentuale dell'installazione. Questo qua ci sta un bel po', rimane sempre un bel po' a zero. Secondo me è un problema di hard disk qua. Ci posso giocare anche il collo. Poi, ricondizionato, ha detto tutto. E dove l'hai preso questo hard disk ricondizionato? Allora, abbiamo guardato su internet, c'era su Amazon questi coso, il primo che ho visto, ho ordinati questo altro, come va? Sì, sì, già va bene, sono ricondizionati, però io ho già acquistato questa edizione, deve essere, non lo so, ho già acquistato, ho detto, vanno bene lo stesso, sono garantiti, eccetera. Io mi sono fidato, come capita nel lavoro mio, quando acquisti, per dire, turbine, alternatori, compressori aria condizionata, sono ricondizionati e sono verificati tutti i parametri, tutto quanto, e sono ripari la metà di quanto costerebbe nuovo, ma sono come nuovi. Sì, oddio, la metà. Guarda, un EPAG da 240 costa 34 euro. Ma io di prezzi non ne sapevo, io sono andato su Amazon, il primo che ho visto l'ho preso, non è che mi sono messo a cercare, ho visto questo 22,90 euro o 21,90 euro, adesso mi ricordo, e l'ho preso, ce n'era anche a 150 euro per dire, poi io ti ripeto, non è il mio campo, non so niente. Guarda, qua c'è anche uno, è sempre SD, io parlo solo di SSD, ce n'è anche uno da 13 euro, quindi è da 120, per il tuo uso va per bene. Appunto, io non mi interessa a me la quantità di dati da immagazzinare, tanto sono solo delle prove così, già lo sai meglio di me, tu Gianfra. Poi devo interfacciare una di quelle specie di cose che dice Vittorio SDR, con le chiavette, chiamiamole chiavette e basta. Oh, io vado a pappare, se ci siete ci sentiamo dopo, è tutto acceso qua. Sì, ok, clamo la carica. Ok, ciao Carlo. Buona serata. Fabrizio è andato via, Fabrizio. No, Fabrizio doveva fare col figlio adesso qualcosa. Ah, cosa ti volevo dire? Oggi ho fatto una saldatura che mi sono usciti gli occhi quasi al microscopio, mi sono azzardato e da una parte c'era la possibilità di ammazzare definitivamente un apparecchio da 250 euro, dall'altra parte c'era la possibilità di recuperarlo. Fortunatamente sono riuscito a recuperarlo, ma stavo lavorando con quattro mani, una manteneva la lente, in più c'avevo anche il caschetto, il saldatore con la massima precisione della stazione saldante a punta finissima, e ci sono riuscito. Oi oi oi, mia fatica. Oh, comunque sta andando adesso, siamo già al 24%. E allora è la RAM, vista. Ah, perché, scusa la mia ignoranza, perché la RAM, io so di solito la RAM quando non funziona non ti dà la pidiata. No, se la RAM è difettosa, la RAM praticamente è la memoria, diciamo, volatile del computer, di lì entra tutto e poi se ne va sull'hard disk, è un canale, diciamo, di transfer, come un ponte. Se il ponte è pericolante, è ovvio che un sistema operativo che le pompa parecchi dati te la butta a terra. E poi anche quando è installato, nel corso dell'esecuzione dell'applicazione, siamo una montagna ai problemi. Oh, vabbè, dai, vabbè, forse sei fortunato, siamo già al 35%, l'errore non l'ha fatto, no, è il vostro ricorda. Vabbè, poi io, guarda, io ci avrei scommesso, perché io sono anni e anni e anni che li faccio, ma questo problema non l'ho mai avuto, mai, mai, mai. Ma cosa come esperienza, là? Cos'era, Luca? La RAM, Clara. Cos'è? E si fuma, Clara, si mette una cartina e si fuma. Un po' mai. Comunque qua avevamo dei consulenti, riparatori, consulenti di computer, dei specialisti di computer, di tutto e di più, visto qua. Speriamo che vada bene. Sì, ma glielo ho letto sicuramente perché gli era dato un cuoco, ma ne... allora è andato in fumo. Sì, è Natalino, è poco come Natalino, bisogna dirlo. Ma te la giuro a Dio, non Natalino, Natalino si sa che è cuoco, ma... Venga, Natalino è cuoco, ma è perché sa poco male bene quel computer. Luca. Beh, c'è sarà una roba, 56%. Fammi capire una cosa, lì c'erano 2 giga di RAM più 1 diverse, 2 uguale e una diversa, così è. No, no, non c'entra niente, 2 uguale e una diversa, 3 giga di RAM, punto. Io te ne ho messo 2 banchi miei da 2 e 2. Perché l'altro giorno metto, quando gli avete V4 la vento andava a manetta, succedeva non so che cosa. Preoccupaccio, lasciami fare, dai, lasci stare andando bene, voi ti metti anche la scheda al video, con la ventilata. Sì, vabbè, sei tu il maestro. Poi abbiamo Gianfranco, che lui è il super, il guru, così ci dice Gianfranco. Sì, un po' va Gianfranco, guarda, ti racconto una cosa veloce. Anni e anni fa è successo, questa tipo ha portato il computer dal tecnico. L'ha portato dal tecnico, poi gli ha detto il tecnico che non si poteva riparare il vostro computer, ok? E gli ha scritto tutto a mano, un foglio bianco con la penna, il danno che c'era al computer, ha detto prova a darlo a me, ho provato, e non andava. Cosa ho fatto? Ho preso e ho cambiato lettore DVD, ci metto il CD, lo faccio partire, installo Windows 7, il PC, un bombone, una bombetta era. E il tecnico gli ha detto che non si poteva riparare, l'ha fatta pagare, mi sa, 40 euro. Sì, vabbè, quello è un altro discorso, Luca. Di lì i disonesti ci sono da tutte le parti. No, parlando di cose tecniche, invece a me era capitato un hard disk che praticamente era stato infettato da un particolare virus, un virus molto potente, che tu non lo vedevi perché andava nelle prime partizioni, nella partizione bassa dell'hard disk, che proprio quella del sistema dell'hard disk, che lo distruggeva. Quindi così vedendo è stata una cosa un po' impressionante, perché era veramente un'arma letale quella, perché non lo puoi togliere, perché praticamente all'inizio dell'hard disk proprio è come è nella parte più profonda dell'hard disk, è la meno raggiungibile dai sistemi normali. Mi ricordo che aveva scassato un hard disk proprio appena messo, a causa una chiavetta, appena messo, pof, tutto spento, tutto bloccato. Sì. Vabbè, là, comunque stiamo parlando che l'ha già installato, completamento di installazione, adesso fare riavvio. Hard disk, vabbè, sembra che sia buono, anche se ricondizionato, però io te lo sconsiglio la prossima volta, compro un nuovo, allora sai che è nuovo. No, roba, anche perché il prezzo non è che per 5-10 euro, capito? Nuovo io l'ho visto, 320 giga a 32 euro, mi sa, nuovo, Gianfra, ti ripeto che io non ne capisco niente, ho visto il primo che c'era, ho letto 500, ho visto il prezzo, poi ricondizionato, io non l'ho mai visto, me l'hanno letto dopo che l'ha ricondizionato, quando è stato ordinato, perché c'era una 30, una 50, una 10, la 12, eccetera, questo è troppo basso il prezzo, prendiamo questo da 22, ho detto che mi sembra un prezzo equilibrato rispetto agli altri, invece poi era ricondizionato. Ecco, comunque ci siamo, va. Cristo, uomini di poca fede. E vabbè, io ripeto, in tanti anni che li faccio non ho mai avuto questo problema. Vabbè, dai, esperienza, Gianfranco, esperienza. Una volta che c'erano lì, era un macello con gli hard disk, solo a staccarli, c'erano tanti piedini, adesso c'è solo quello d'alimentazione. È quello dati. Quindi Roberto, adesso ti mancano i programmi, che il 90% sono gratuiti. Tu cosa c'è Roberto? ADSL o come diavolo si chiama? C'è la ADSL, sì, a casa. Io ho la fibra, ma fa ridere, infatti mi sa che non la attacchiamo. Vodafone è troppo lenta, era un po' meglio della ADSL. che lì se non ci mettono mano, ma come è possibile la fibra? Sai quando andiamo noi di fibra? Anche se è una cosa ovvia da noi, perlomeno noi andiamo intorno ai 400 giga. Ma lo immagino, voi siete uso professionale, ma a me quello che mi fa ridere, ce l'hanno garantita fino a 100 mega, dico non mettermene 100, mettimene 60, mettimene 50, ma tu non puoi navigare a 25, cioè dichiarando che ne hai 100, e la centralina è a 50 metri da dove ti controlli, perché sono stati i primi che hanno installato qua come servizi, là. E poi mi viene, adesso c'è Tiscali che sta dichiarando un giga di velocità, vagando, cioè siamo andati a Tiscali, era un bidone. Guarda, io a casa qua te lo dico perché poi questa cosa dei giga è un po' strana. Adesso ti dico esattamente a quanto sto andando io, tenendo presente che la mia è una connessione radio. Vediamo un po'. Allora, in questo momento, che dovrebbe sono le 20:51 al momento di grosso traffico, sto andando esattamente a appena 5 mega. Questo mi consente però con questi 5 mega di fare una videosorveglianza da remoto tranquilla, vedere tutti i film che voglio, pilotare vari sistemi di automatici, poi alimentare anche il network, quindi figurati quanto me ne frega se avere un giga, qua ce ne sono 4 mega, di upload invece è abbastanza veloce, 3 mega, è tanto per un upload, e questo tutto via radio che prendo il segnale dal ponte che c'è lì, deve essere altissimo. Adesso sto trovando in tempo reale, megabyte 15, upload 15,6, velocità di download 18, ping 48, che sicuramente è scombussolato, è scompensato, cosa dici? Sì, vediamo, il ping adesso già direttamente alla velocità, quindi non fa ben tempo neanche a vederlo, però ti posso assicurare, io c'avevo anche Telecom, un Telecom che doveva essere 8 mega, c'avevo un giorno sì e 10 no, alla fine dopo che l'ho fatto spendere qualche migliaio di euro per cambiare pure pali per dispetto, l'ho mandato alla risposta immediata. Guarda, te lo dico in tempo reale, adesso faccio di nuovo il test, guarda, te lo dico, allora, adesso sta caricando, allora, vediamo un pochettino, sono arrivato a 17, 18, 19, 19, 8 di 20,2, velocità di download 20,1, ping 72, velocità upload, vediamo quanto ci dà, upload, 15 e 4, 15 e 6, 15 e 5, intorno ai 15. Jitter, cos'è questo Jitter? 98. Sono tutti i parametri di rete, di prestazioni della rete. Come funziona? Perché non sei contento? Assolutamente no, è lentissima. Qua abbiamo fatto delle prove anche a 70, eravamo arrivati per un attimino. C'è qua un altro vicino a me, lo stesso è arrivato a 60-70. Per essere una fibra è lentissima, cioè non puoi navigare a 20 secondo me. No, non capisco l'ultima parola, non puoi navigare a 20. Io sto navigando anche con 3 mega e tu con quelle con 15 non riesci a navigare. No, già navigo, però non la vedo così veloce come mi immaginavo, cioè rispetto a coso, a prima c'era la DSL, ma io non ho notato differenza. Quando sono venuto a fare la prova sì, l'ho vista che aveva via 70, per dire da 10, 8, quanto è la DSL, non lo so. Se è arrivata a 70, ho detto cacchio, una scheggia velocissima a priorità, siamo a livello di cellulare, di velocità di cellulare. Allora guarda, la velocità non è, la vedi soprattutto nel download, meglio provare per quello che riguarda poi mandare di farla a qualcuno, ti rivedi la velocità, sempre che poi il server a cui ti stai collegando abbia un minimo di prestazione. Ci vorrebbe una prova con e senza fibra per essere sicuri. E da lì ti accorgi se è realmente veloce o meno, ecco. Perché lo speed test comunque è anche aleatorio, perché lui manda un pacchetto molto piccolo e quindi è chiaro che a prescindere tutto è veloce. A me la mattina ad esempio non c'ho traffico, c'ho anche 30 mega come velocità, però per avere i risultati esatti dovresti mandare un ping, quindi il ping non è altro che una domanda, no? Domanda e lui ti risponde, un ping molto grosso in termini di kilobyte, ecco. Se mando un kilobyte è chiaro che in una frazione di secondo mi risponde, voglio vedere se le mando da un mega cosa mi succede, ecco. Aspetta, vediamo se c'è ancora Luca, ci sei? Sì, a Roma. No, questa prova è l'antenna, l'antennino che mi hai dato. L'antenna, quella wifi. A te di mori, bisogna, camera mia. Non ho capito cosa c'è con l'antennina. Presta a trovarla, però se non l'ho messa. Non ho capito quello che hai detto. Cioè non dialoga, non riesce a farla. No, la prima che mi hai dato, wifi, non riesco a trovarla. Ma trovarla dove? Dentro del computer o non riesci a trovarla fisicamente? No, non riesco a trovarla fisicamente, in camera. Ma no, c'è una maglia da Rugani, non c'è un cane tu. Ma cosa Rugani, non li tocca Rugani. Ah, ok, c'era da qualche parte. E quindi quei valori non sono così brutti, Gianfra? Non ho capito. Se sono mangiato il cane, comunque te ne accorgi subito perché vedi la coda dritta, quindi tipo antenna. Romero, non ho capito, hai detto che? Okay. Quei valori che ti ho dato io di euro, io ho fatto euro test per la velocità della fibra, non sono così scadenti come dico io. In teoria no, poi bisogna vedere innanzitutto la tua fibra arriva a casa o arriva alla centralina, dalla centralina c'è il suo doppino. Allora, dalla centralina a dove attacco io ci sono neanche 100 metri, 80 metri di rame. E quello è già un bel percorso e comunque perdita di forza, mentre quando noi parliamo di banda larga, alta velocità, noi intendiamo che arriva la fibra lì, c'è un modem di fibra e tu ti attacchi a quel modem di fibra, sia con un doppio wifi che può essere 525 oppure con se vuoi proprio il massimo con delle schede vere e proprie di fibra, sono dei cavetti piccolissimi con dei ricetrasmettitori si chiamano, che riescono a gestire parecchi giga come comunicazione, ma ripeto, i valori per un utilizzo domestico sono più che sufficienti, ecco. Allora io ho la cassetta, sono venuti e hanno fatto la fibra e hanno messo già le cassette, dice si devono solo collegare, saranno in linea media da dove hanno messo la cassetta adesso per mettermi la fibra vera e propria, saranno un metro neanche forse. Vedrai che così migliora in termini di velocità e di utilizzo, poi io non so in quanti siete voi a utilizzare la cosa. Qua è molto collegata, capito, già la videosorveglianza quando va a trasmettere immagini ai telefonini, alla macchina eccetera, ciuccia parecchio. Poi adesso sto anche domotizzando la casa, quindi insomma la cosa è ancora più grossa, e il tutto fatto con pochi mega. No, c'è da dire che ci sono, come utenti collegati ce ne sono tanti, almeno 4 o 5 contemporaneamente. 4 o 5 guardano tutti i film, tutti i streaming, quindi. Sì, poi i miei figli stanno sempre guardando sui film. e quindi va bene così. Insomma, fa la divisione, fa lo streaming, diciamo, anche se adesso ad esempio quelli di Netflix, ma anche di Amazon Prime, hanno un sistema di riconoscimento, no? Il sistema praticamente ti permette di non perdere mai il film. Se fosse stati con la tecnologia di 10 anni fa, praticamente sei certo che tu